Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Mutui per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie precarie, mutui a tassi favorevoli o finanziamenti agevolati per gli studi universitari, per lo studio della lingua straniera, per poter ottenere un dottorato, per seguire un master. Sono due possibilità che verranno rese possibili grazie a due fondi di garanzia attivati dal Ministero della Gioventù in collaborazione con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, l'INPS, e la CONSAP, la concessionaria del Ministero dello Sviluppo Economico, che tra l'altro gestisce diversi fondi di solidarietà, fra cui quello delle vittime dell'usura e delle vittime della strada. Per la verità, la collaborazione dell'INPS è attiva in una terza dote, che è quella da 5.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori disoccupati o precari, anche se questa è una parte di tutto il complessivo progetto di cui parliamo questa mattina, della quale magari ci occuperemo in un'altra circostanza. Tutto questo complesso di iniziative è stato presentato ieri a Roma dal ministro Giorgia Meloni, e tutte queste iniziative sta partendo una intensa campagna pubblicitaria. In totale abbiamo a disposizione 120 milioni di euro, 50 milioni per il fondo casa, 19 milioni per il fondo studio e 51 milioni per il fondo genitori precari, fondi che tutti insieme fanno parte del cosiddetto pacchetto diritto al futuro, una serie di iniziative rivolte alle giovani generazioni, come ha sottolineato proprio il ministro Meloni. Le iniziative sono attive da oggi, ma quello che noi ci chiediamo è come funzioneranno questi progetti, da quando e come sarà possibile andare in banca a chiedere questi finanziamenti per l'acquisto della casa o per proseguire lo studio universitario. Che tassi hanno questi finanziamenti? Bisogna andare in banca con mamma e papà che ci forniscano le necessarie garanzie? Come funziona il fondo di solidarietà sottostante? Tutti i temi di cui parleremo questa mattina, perché l'iniziativa, appunto, come ribadisco, è stata presentata ieri a Roma, quindi ancora moltissimi dettagli non ne abbiamo, ma li avremo oggi sicuramente. Intanto con il dottor Gianfranco Torriero, direttore generale dell'ABI. Buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Lo spremeremo soprattutto nella prima parte della trasmissione, perché poi alle 12.40 ci deve lasciare, per cui glielo preannuncio già. Saluto anche Roberto Morgante, responsabile della direzione amministrazione di CONSAP, che è la concessionaria, appunto, servizi assicurativi pubblici SPA del Ministero dello Sviluppo Economico, e come ho ricordato gestisce numerosi fondi di garanzia, dei quali abbiamo anche avuto modo di parlare a Salva Danaio. In particolar modo abbiamo parlato del fondo rapporti dormienti e del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Dottor Morgante, benvenuto nella nostra trasmissione. E ci aiuterà anche Vito Lops oggi ad orientarci in tutto questo argomento, che è molto complesso, perché peraltro, naturalmente, siccome i mutui hanno ovviamente dei tassi a cui verranno praticati, proprio anche il movimento dei tassi di interesse sui mutui di recente ha assunto una direzione abbastanza interessante, Vito, da monitorare, quindi noi stamattina, appunto, approfitteremo della tua presenza anche per discutere di tutto questo. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di farci in diretta delle domande se volete conoscere qualche aspetto più dettagliato delle iniziative delle quali parleremo questa mattina. Ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Sbrighiamo la pratica della borsa questa mattina con qualche dettaglio che avete già sentito anche nel corso del giornale radio. Le borse hanno aperto contrastate stamattina, per poi intraprendere con decisione la direzione negativa. Adesso abbiamo un Francoforte, una Francoforte che perde quasi 2 punti, Parigi meno 1, Londra meno 0,45, Milano meno 0,88%. Stamattina le borse, vi dicevo, appunto, erano partite contrastate. Alcune piazze positive consolidavano e rafforzavano i rialzi di ieri e poi ci hanno ripensato. Di nuovo una corrente di vendita ha ripreso a colpire Francoforte, che già da qualche giorno è al centro di una rinnovata ventata, appunto, di speculazione. So già che a qualche ascoltatore questo termine non piacerà, ma in ogni caso questo è quanto accaduto in qualche seduta. Stamattina gli investitori stanno tornando ad interrogarsi sulla solidità del sistema bancario europeo, perché il Fondo Monetario Internazionale avrebbe detto che se gli istituti del vecchio continente mettessero a bilancio i titoli di Stato ai prezzi di mercato avrebbero un valore inferiore del 10-12% rispetto agli attuali livelli. Devo dire che però su Piazza Affari, per esempio, la pressione sui titoli bancari non si sente particolarmente, sono tutti in leggero calo, ma non in calo molto pronunciato, perché il calo più forte lo segnano i titoli industriali, che hanno corso tanto nelle ultime due sedute. In prima fila la Galassia Fiat, che perde tra il 3 e il 4%, Fiat SPA meno 4,16, titoli industrial meno 2,51 in questo momento, Pirelli meno 3,77, Buzzi Unicem meno 2,65, in calo anche qualche energetico, Saipem meno 2,37, Tenaris meno 2,16. Nel settore bancario oggi perde terreno Azimut, settore del risparmio gestito, per la verità meno 2,14%. Invece Intesa San Paolo guadagna lo 0,8, tra l'altro oggi un altro titolo sotto i riflettori, perché si è appreso che insieme ad Unicredit dal 19 settembre questi due titoli appunto usciranno dall'Eurostoxx 50, che è l'indice composto dei 50 titoli più rappresentativi dell'Eurozona, ma questa uscita di scena appunto non si fa sentire più di tanto sul titolo, perché per la verità poi questa notizia si era appresa già da qualche settimana. Unicredit perde lo 0,7%. In una leggera battuta d'arresto anche l'euro, sul dollaro sta quotando 1,42,85. Direi che la borsa la possiamo lasciare, andiamo subito al tema di quest'oggi e parliamo appunto delle iniziative che sono state presentate ieri a Roma. Complessivamente è stata presentata questo pacchetto di iniziative diritto al futuro, iniziativa del Ministero della Gioventù con la collaborazione dell'ABI, IMSS, CONSAP. Andrei subito a spiegare come funzionerà tutto il pacchetto dei mutui col dottor Gianfranco Torriero, direttore generale dell'ABI. Dottor Torriero, peraltro, proprio in un momento in cui ancora per il sistema bancario si vivono giornate, almeno quello che succede in borsa, sull'otto volante, in cui il credito interbancario si è rifatto di nuovo un pochino rarefatto, questa è una bella operazione alla quale aderire. Beh, certo, perché noi si inserisce una bella scommessa, intendo, anche per il sistema. Si inserisce un insieme di iniziative che ormai nel corso degli ultimi due anni stiamo svolgendo proprio nei confronti della clientela, sia del mondo delle imprese sia del mondo delle famiglie, con interventi, diciamo, di sostegno specifico in una fase dell'economia particolarmente critica, perché appunto abbiamo avuto di fatto tra il 2008 e il 2009 un crollo del PIL del 10%, che è un fatto eccezionale, e quindi le imprese bancarie hanno dato delle risposte insieme all'associazione dei consumatori, insieme al mondo delle imprese, insieme al governo, di tipo eccezionale. Andiamo allora all'iniziativa sui mutui, spezzettiamo tutto il progetto, e ho già ribadito appunto che una parte di questo progetto, quello che prevede la dote per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani disoccupati, magari la tratteremo singolarmente in un'altra circostanza, in un'altra puntata. Andiamo appunto dai cosiddetti mutui più facili per le giovani coppie. Intanto è possibile già da oggi andare a fare la richiesta in banca, ma ho visto, dottor Torriero, che non tutte le banche ancora hanno aderito all'iniziativa. Certo, allora partiamo dalle adesioni. Le adesioni, appunto essendo il periodo estivo, già hanno raggiunto tutto sommato un buon risultato, perché siamo intorno al 40% del totale degli sportelli. Alcune banche hanno aderito proprio nel corso dell'ultima settimana, alla ripresa poi dell'attività piena dopo il periodo più feriale, e in alcuni casi è già possibile andare in banca, perché sono trascorsi i 30 giorni dal momento in cui la banca ha aderito al progetto, e quindi ci sono alcune banche su cui si può immediatamente operare, senza farle fare l'elenco. Saranno operative nel corso del mese di settembre. Ecco, senza farle fare l'elenco, dottor Torriero, mi scusi se la interrompo, possiamo già andare sul sito dell'ABI, per esempio? Sarà, esiste un elenco, da oggi pomeriggio ci sarà l'elenco disponibile sul sito dell'ABI, sul sito del Ministero, proprio per poter rendere pienamente operativo il tutto. Quindi da oggi pomeriggio sarà possibile cliccare sul nostro sito, sul sito del Ministero, e poter essere inviati diciamo al sito che raccoglie tutte le iniziative per quanto riguarda proprio l'iniziativa del Ministero. Allora, questo è già un modo di dare piena visibilità. Ricordo il sito dove saranno condensate tutte le informazioni, che è www.diamogifuturo.it, oltre ai siti istituzionali dell'ABI e del Ministero del Ministro Meloni. Allora, quindi diciamo questo per dire, da settembre sarà pienamente operativo. Allora, chi può andare a chiedere questi finanziamenti agevolati partendo per la casa? Partiamo dalla casa, appunto, è rivolta alle giovani coppie con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, cioè quindi in qualche modo, scusate, passatemi il termine, è rivolto ai cosiddetti precari che hanno maggiore difficoltà per acquisire la prima casa perché hanno in qualche maniera non hanno un reddito stabile, quindi una maggiore difficoltà a poter rimborsare nel tempo le rate di mutuo, e c'è la possibilità di attivare un apposito fondo di garanzia, come lei ha indicato in precedenza, di un ammontare di 50 milioni di euro, quindi una dotazione abbastanza importante. Da nostre stime risulterebbero che possono utilizzare questo fondo, potrebbero utilizzare potenzialmente anche 10.000 soggetti, potrebbero utilizzare questo fondo, quindi un numero abbastanza significativo di giovani coppie, e in particolare potranno usufruire di una garanzia che potrà essere pari al massimo a 75.000 euro e in qualche modo si riferisce ad acquisti di immobili per un importo non superiore ai 200.000 euro, ovviamente non devono essere immobili di lusso perché e non superiore ai 90 metri quadri. In qualche maniera abbiamo ragionato con il Ministero di dare la possibilità alle giovani coppie di iniziare questo percorso importante per poter consolidare e avere un luogo di dove vivere e nello stesso tempo si rivolge anche a soggetti che abbiano fino a 35 anni di età, quindi giovani coppie e con un reddito diciamo ISEE, che è quell'indicatore particolare che viene utilizzato ormai in tutte le agevolazioni, non superiore complessivamente a 35 euro, 35.000 euro, quindi diciamo 200.000 euro di valore del mutuo. Dal lato della dimensione dell'immobile 90 metri quadri, non deve essere un immobile di lusso, è erogato a giovani coppie che complessivamente hanno un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, non devono avere un'età superiore ai 35 anni e un ulteriore elemento fondamentale, non devono avere un reddito complessivo imponibile IRPEF derivante per oltre il 50% da un contratto a tempo indeterminato, quindi rivolto alle giovani coppie che hanno prevalentemente dei redditi di tipo precario. Aggiungo anche che oltre alle giovani coppie coniugate viene data la possibilità di fare richiesta per un mutuo di questo tipo anche a nuclei familiari con unico genitore con figli minori, poi magari specificheremo anche la composizione di questo nucleo familiare. Prima di andare ai tassi di interesse che verranno applicati a questi mutui, vorrei capire come funziona questa garanzia di sostegno, che è un po' l'architrave di tutta l'operazione. Dottor Roberto Morgante della Consap, l'ho già presentato, ho già spiegato che cosa fa la vostra concessionaria, la concessionaria del Ministero dello Sviluppo Economico, che gestisce numerosi fondi di garanzia. Ho citato quello dei rapporti dormienti, quello dell'altro fondo di solidarietà per i mutui, ma c'è anche il fondo di garanzia per le vittime della strada, il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Esattamente, ci spiega qual è il supporto dato alle giovani coppie che chiedono un mutuo di questa tipologia, in che maniera interviene la garanzia della Consap? Allora, è semplice, le giovani coppie si devono presentare in banca e devono presentare una domanda che è una domanda tipo che viene pubblicata sul sito citato diamoglifuturo.it e ad allegare dei documenti che sono previsti. La banca recepisce tutta la documentazione, la trasmette a Consap per via telematica, perché è stato predisposto un apposito sistema per ricevere e trasmettere tutta la documentazione. Consap, valutata la domanda e i documenti allegati, la completezza, praticamente dà l'ok alla banca per l'ammissione alla garanzia del fondo entro 15 giorni successivi dalla ricezione di tutto quanto. Quindi la finanziabilità del soggetto praticamente la stabilite voi, in questo caso non la banca? No, la finanziabilità la definisce la banca. Noi andiamo a valutare i requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla garanzia del fondo. Quindi se il reddito ISEE è inferiore ai 35.000 euro, se la coppia è coniugata, se la coppia è monogenitoriale, se l'età, questi i dati sia soggettivi che oggettivi, anche l'immobile. Per quanto riguarda invece la finanziabilità è sempre compito della banca. Sì, diciamo che comunque anche la banca, se una coppia si presenta con queste caratteristiche, può già dare un via libera di massima, in teoria no, all'operazione, perché già le conosce evidentemente le condizioni. Quindi a quale punto interviene la garanzia copertura della richiesta? La garanzia interviene nel momento in cui il finanziamento, il mutuo va in default, quindi non c'è il rientro delle singole rate. Già alla prima rata, che rimane insoluta, la banca deve sollecitare il beneficiario al pagamento, altrimenti, decorso un periodo stabilito, può richiedere l'attivazione della garanzia. Consap nei tempi stabiliti fa l'esame di tutta quanta la documentazione trasmessa dalla banca per l'attivazione e rimborsa effettivamente la banca delle somme rimaste insolute. Fino ad un massimo di 75.000 euro. E questo naturalmente immagino, perché dottor Morgante, perché essendo un fondo di garanzia che vuole aiutare i lavoratori precari, se per tre mesi un contratto a tempo indeterminato cessa e per tre mesi magari un componente della coppia è senza lavoro, il budget, il reddito mensile si restringe, in questo caso appunto loro viene data la facoltà di avere la copertura delle rate, quindi questo credo un po' lo spirito dell'iniziativa. Diciamo che lo spirito dell'iniziativa è quello di consentire a queste persone di andare in banca, come ha detto lei, senza i genitori, quindi c'è una garanzia a fronte dello Stato del 50% fino a un massimo di 75% che copre il mutuo e il finanziamento. Dopodiché sì, nel momento in cui rimangono delle rate insolute ci sono dei tempi che comunque sia consentono anche a un lavoratore con contratto a tempo determinato di poter far fronte poi agli impegni successivi. Quindi non è che c'è l'escussione della garanzia 30 giorni decorsi la prima rata insoluta, solitamente possono passare anche 6 mesi prima di arrivare all'escussione della garanzia. Quindi una volta poi escussa la garanzia da parte della banca, noi rimborsiamo la banca delle somme rimaste insolute e contestualmente e successivamente ci attiviamo per il recupero di queste somme nei confronti del beneficiario. Ecco, poi anche lì sarà interessante capire in che modalità questa procedura si attiverà. Adesso ci dobbiamo fermare, abbiamo la prima pausa, dobbiamo affrontare anche il tema tassi applicati a questi mutui garantiti dal fondo, che appaiono evidentemente, anche secondo le condizioni diffuse di mercato, particolarmente favorevoli, ma l'uomo dei tassi di interesse è il nostro Vito Lopes, quindi gli chiederemo la consulenza. Eccoci ritrovati in diretta, stiamo parlando di questo progetto che è stato presentato ieri a Roma, il pacchetto Diritto al Futuro, una serie di iniziative che, come ha detto il ministro della gioventù Giorgia Meloni, sono rivolte alle giovani generazioni che naturalmente molto spesso fanno fatica ad avviare in maniera dignitosa la propria vita, perché il mercato del lavoro adesso è diventato molto difficile, come sapete bene, se ci si vuole sposare è anche difficile farlo, perché a meno che non si abbia un aiuto consistente da parte di mamma e papà, andare in banca per chiedere un mutuo per comprare la prima casa è diventato davvero molto complicato. Per questo appunto è partita l'intesa sul fondo di garanzia per consentire ai precari, anche chiamiamoli anche un po' c'era un altro termine in passato che si utilizzava per appunto definire le figure professionali che non avevano contratti a termine, contratti appunto di lavoro a tempo indeterminato, adesso mi sfugge il termine ma fra poco me lo ricordo, comunque insomma per consentire ai precari l'acquisto della prima casa a tassi favorevoli. Di tutto questo stiamo parlando questa, ma gli atipici, esatto, mi veniva anomali, Vito, poi tra l'altro abbiamo detto atipici fino a 2 secondi fa, microfoni spenti, adesso mi veniva anomali, non so per quale motivo, però stiamo parlando appunto di questa iniziativa che è stata messa in piedi con la collaborazione dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, l'INPS e la CONSAP, la concessionaria del Ministero dello Sviluppo Economico, che gestisce vari fondi di solidarietà e anche il fondo di garanzia appunto per questi finanziamenti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso sentiremo Marco da Milano ed Espinosa ed Massimo appunto da provincia, sempre dalla provincia di Milano, che nome complesso, poi gli chiederemo anche qualche dettaglio su questo. Vito Lopes, però volevo chiedere a te se avevi avuto modo di dare un'occhiata ai tassi applicati ai mutui appunto garantiti da questo fondo, ti sembrano favorevoli o no, rispetto, visto che tu le condizioni di mercato generali le conosci abbastanza bene? Ecco, dobbiamo dire che qui emerge che i tassi applicati sono hanno uno spread del 150 punti base per durate da 20 anni in poi e di 120 punti base per quanto riguarda durate inferiori, sia che si tratti di mutui a tasso fisso o a tasso variabile. Quindi lo spread è il punto e mezzo, il tasso di remunerazione che chiede la banca rispetto all'Euribor, rispetto al tasso base applicato appunto al finanziamento. Sì, un punto e mezzo. Su questo fronte possiamo aggiungere due elementi. Uno, che diciamo stiamo parlando di categorie di soggetti che hanno un rating, quindi un grado di solvibilità sul debito abbastanza basso, visto che non hanno un lavoro a tempo indeterminato. Se no non era necessario il fondo di garanzia. E quindi è normale che lo spread sia, diciamo, non il più competitivo in questo momento nel mercato, perché possiamo trovare, anche se stiamo notando una tendenza da parte di tutte le banche, anche per chi ha rating più elevati, ad alzare un po' gli spread. Diciamo che lo spread di 150 punti base è un buon compromesso, ma non si tratta della soluzione idealtipica nel mercato in questo momento, perché si trovano anche spread all'1,1% nelle condizioni più favorevoli. Diciamo che è un buon compromesso per questa tipologia di richiedenti il mutuo, per i precari. Altre riflessioni? Un'altra riflessione che vorrei approfondire è il fatto che al momento non è specificato per quanto riguarda le offerte dei mutui a tasso variabile la tipologia di Euribor, perché si parla generalmente genericamente di Euribor, quando ben sappiamo che questo indice è suddiviso tra varie scadenze, quindi c'è la scadenza a un mese, a tre mesi, e andando a guardare lo storico dell'andamento di questi Euribor emerge che l'Euribor a un mese storicamente negli ultimi 10 anni è stato più basso dell'Euribor a tre mesi di circa 20 punti base. Tra l'altro la stessa differenza che è in questo momento anche sul mercato tra questi due indicatori, che per un mutuo medio di 150.000 euro a 20-25 anni corrisponde a circa 4-5.000 euro di risparmio. Quindi bisogna anche cercare di, se possibile, strappare tra virgolette l'Euribor a un mese. Certo, dottor Torriero, allora è possibile avere una delucidazione sull'Euribor che viene applicato ai finanziamenti per la prima casa per le giovani coppie all'interno delle quali c'è un lavoratore precario? Sì, allora seguiranno le indicazioni commerciali delle singole banche, appunto perché c'è un elemento di particolare interesse. Le condizioni finanziarie saranno totalmente trasparenti, perché saranno riportate appunto sul sito internet e quindi sarà possibile confrontare le condizioni praticate dalle singole banche. Questo è un elemento oltre una condizione di favore, perché scusate, volevo fare una piccola correzione. Sì. Operare oggi con 150 basis point, 1.50 di spread, è un valore particolarmente contenuto. Questa mattina sono andato proprio sui siti internet online per vedere le offerte a coloro che non sono una condizione di precarietà, quindi che non sono i migliori operatori. Ovviamente se escludiamo i primi due o tre operatori che hanno dei tassi, degli spread particolarmente contenuti, ci posizioniamo proprio sul livello di 150 basis point normalmente. Questo è un elemento importante che fa vedere come le banche che in questo momento stanno scontando costi di raccolta particolarmente significativi sulla raccolta attraverso le obbligazioni, perché sappiamo che raccogliere a medio e lungo termine sia per le banche che per gli stati è particolarmente complesso, è un punto di interesse particolarmente significativo e proprio va nella soluzione di voler aiutare soprattutto le giovani coppie che hanno qualche difficoltà. Tra l'altro, chissà se questa situazione si manterrà ancora a questi livelli per lungo periodo. Stamattina Maximilian Cellino sul Sole 24 Ore proprio propone un articolo piuttosto articolato, scusate il termine, su questo argomento: mutui, le banche alzano i ricarichi, l'Euribor e l'IRS, appunto i riferimenti per il tasso, per il mutuo a tasso variabile, il mutuo a tasso fisso sono livelli molto bassi, resta però l'incognita dello spread praticato. Infatti, dagli istituti. Sì. Una precisazione sullo spread, suggerisco solamente una cosa: lo spread non è il guadagno della banca, ma lo spread permette di recuperare anche i costi di raccolta della banca, perché immaginare il margine applicato dalla banca a 1,30 quant'è oggi l'Euribor, ovviamente, quando sappiamo appunto proprio nell'articolo di Max Cellino c'era stata una banca che ha raccolto al 5%, quindi in realtà lo spread non è il guadagno della banca, ma lo spread serve per riallineare il costo della raccolta e per coprire, come veniva detto dall'OPS anche il grado di rischio dell'operazione. Allora, dottor Torriero, lei ha ancora pochissimi minuti di tempo di disponibilità per noi. Le faccio sentire una domanda di Marco da Milano, poi le faccio spiegare rapidamente anche il funzionamento del finanziamento agevolato per gli studenti, anche se poi naturalmente il tema più gettonato dai nostri ascoltatori è quello dei mutui, e quindi magari ne approfitteremo per fare delle puntate solo ed esclusivamente sui finanziamenti per chi vuole studiare e sui finanziamenti per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati. Questo è un altro tema molto importante. Sentiamo Marco da Milano. Marco. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. Volevo porre l'attenzione appunto sull'aspetto, dato che Consap, questo fondo di garanzia, dovrebbe coprire il default delle rate, e nel caso dei precari può essere di un mese, due mesi, tre mesi, quando c'è un cambio proprio di datore di lavoro, di perdita del posto di lavoro. Finisce banalmente un contratto in attesa che se ne riapra un altro. Certo. Il rischio di cosa dove volevo porre attenzione, dato che è un rimborso da parte di Consap, se non sbaglio, mi sembra di aver capito, sì, l'accesso alla banca dati negativa da parte di questi clienti. Perché nel momento in cui uno va a non pagare la rata alla propria banca e successivamente c'è un rimborso, rimane la traccia negativa nella CRIF e nelle banche. Marco, però, che dettaglio che è andato a cercare, però è un'osservazione assolutamente pertinente. Lei dice, insomma, sì, va bene che magari per tre mesi la Consap copre la mancata copertura da parte mia della rata che non riesco a versare, però comunque il mio profilo si macchia in qualche maniera, il sistema finanziario lo sa, e magari non posso chiedere per questo motivo un prestito da un'altra parte. Faccio rispondere Roberto Morgante, dottor Morgante, se vuole dire la sua, poi magari sento anche Torriero. Per quanto riguarda le segnalazioni, su questo io non entro in merito, però andiamo poi alle banche. Sì. Copre solamente i tre mesi. Comunque sia, ci sono dei tempi prima di arrivare all'escussione e all'attivazione della garanzia da parte delle banche. Quindi, ripeto, qui arriviamo addirittura, devono decorrere 135 giorni dalla scadenza della prima rata insoluta per far sì che venga sollecitato il pagamento. Dopodiché devono decorrere ulteriori 190 giorni perché il beneficiario si possa mettere in regola con i pagamenti. Quindi parliamo poi, dopo devono decorrere ulteriori 190 giorni se non si mette in regola con i pagamenti per poter escutere la garanzia. Quindi qui parliamo di periodi molto lunghi, non è che parliamo che se dopo 15, 20, 30 giorni non si paga una rata immediatamente si viene tracciati come cattivi pagatori. Parliamo di oltre 12 mesi, insomma, quindi c'è il tempo per rimettere in piedi. E poi, insomma, vediamo, se dovesse capitare qualche episodio di questo tipo, magari lo monitoreremo attentamente, lo segnaleremo per permettere alle banche di correre ai ripari. Il dottor Torriero voleva commentare questo dubbio sollevato dall'ascoltatore? Sì, perché appunto è importante che proprio la convenzione con il Ministero prevede la possibilità da parte delle banche che all'atto di adesione a questo protocollo d'intesa possono essere previsti casi specifici di sospensione del rimborso delle rate per un massimo di 12 mesi, cioè in qualche maniera la banca può definire che in caso di perdita di lavoro, di non riassunzione in un certo arco temporale ci può essere una sospensione, così come stiamo facendo oggi con il piano famiglie, dove abbiamo sospeso per un anno, diamo la possibilità in casi particolari di sospendere il rimborso delle rate, e questa cosa determina la non segnalazione nelle varie eventualità. Ovviamente devono essere delle clausole preventivamente definite nell'ambito del rapporto contrattuale. È un'ulteriore assicurazione che viene fatta e che è previsto direttamente da questo protocollo. Dottor Torriero, io approfitto di lei solo per un altro minuto, però lascio andare. Un ascoltatore ci scrive, Gian da Vicenza, coppia con un precario e una partita IVA, può andare in banca a chiedere questo finanziamento? Certamente, certamente. Poi dipende dalla composizione. Ecco, una cosa importante. Sì, a patto qui, che abbia i requisiti reddituali che abbiamo dato prima, eccetera. I requisiti reddituali, poi c'è tutta una serie di casistiche, però è possibile ritrovare proprio sul sito che abbiamo indicato in precedenza. C'è la possibilità appunto di tener conto che è rivolto inizialmente a coppie coniugate con o senza figli minori, ma in realtà è anche rivolto a quelle coppie non coniugate che hanno dei figli minori, dove c'è la possibilità di una richiesta congiunta da parte dei coniugi. Quindi diciamo che da questo punto di vista ci sono tutta una serie di tipologie che devono essere approfondite, ma è importante sia consultando via internet sia rivolgendosi in banca di poter avere tutte quelle informazioni e capire se ci sono le condizioni per poter usufruire di questo importante strumento. Ringrazio moltissimo Gianfranco Torriero, direttore generale dell'ABI, per essere stato con noi. Dottor Torriero, ci risentiamo presto, magari fra un mesetto, mesetto e mezzo, così ci racconta un po' come va questa operazione. Cercheremo di capire anche se magari chi è andato a chiedere ritenendo di avere questi requisiti in banca, questi prestiti, se ha avuto qualche difficoltà magari ne discuteremo insieme, va bene? Certamente. A presto, grazie molte. Allora, Espinosa Massimo dalla provincia di Milano, perché ho dovuto dire Espinosa prima di Massimo? Buongiorno, Deborah. Scusi, no, io sono Massimo con un come nome, di solito il cognome. Ah, ecco, perché me l'hanno messo qua, adesso è abbastanza raro, insomma, che mi mettano nome e cognome le ragazze del centralino, ma non importa, comunque Massimo mi dica, è di nazionalità straniera? Sì, sono del Perù, peruviano. Sì. E allora, voleva sapere? Allora, più che altro c'è il prestito anche per extracomunitario, ogni tanto escono diciamo dei prestiti magari, però che non soltanto italiani o comunitari, in domanda sia anche per extracomunitari. Ma guardi Massimo, se lei ha un lavoro regolare, se rientra all'interno di questi requisiti che il fondo di garanzia chiede e che le banche chiedono, io non credo proprio che al sistema bancario salti in mente di fare una discriminazione. Vito, che cosa ne pensi? Vito Lops? Sì, sì. Ci mancherebbe altro che si faccia una discriminazione tra il cittadino straniero e quello italiano per concedere un finanziamento. L'importante è che appunto stiamo parlando di giovani coppie coniugate, l'età inferiore, tra l'altro non ho capito qui poi al dottor Torriero, non abbiamo chiesto, entrambi i coniugi devono avere l'età inferiore a 35 anni, non so, dottor Morgante, questi aspetti li conosce lei un po' più nel dettaglio? Sì, entrambi i coniugi devono avere l'età inferiore, sicuramente. E quindi appunto il reddito ISEE, abbiamo detto così per spiegarlo anche a Massimo, non superiore a 35.000 euro complessivi, non più del 50% del reddito complessivo imponibile fini IRPEF derivante da un contratto a tempo indeterminato. Ovviamente poi ci deve essere anche il mancato possesso di altri immobili ad uso abitativo, quindi questo è proprio il finanziamento per la prima casa. Qualche dettaglio sul prestito invece per gli studenti, dottor Morgante, visto che anche lì interviene la Consap per appunto garantire un eventuale mancato pagamento. Sì, questo fondo praticamente consentirà ai giovani studenti di ottenere un credito per finanziare sia gli studi universitari o l'apprendimento di una lingua straniera o una specializzazione per un dottorato o un master. Il fondo ha uno stanziamento di 25 milioni di euro, è un fondo rotativo. La garanzia del fondo interviene, a differenza dell'altro, per una copertura del 70%. Mm-hmm. Tra l'altro possiamo dare anche in questo caso le caratteristiche delle persone, le caratteristiche che devono avere i potenziali richiedenti. Intanto il finanziamento si riferisce a corsi e a master universitari, sono cumulabili fra di loro per un ammontare massimo di 25.000 euro, sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000, sono concessi a studenti di età compresa fra i 18 e i 40 anni, lo studentello fresco di 38 anni è effettivamente un'immagine anche molto divertente, ma questo insomma è solamente un commento sciocco. Hanno un piano di ammortamento questi finanziamenti che iniziano a decorrere dal 30° mese di erogazione dell'ultima rata del finanziamento. Peraltro Vito Lops, noi conoscevamo già da parte del sistema bancario la possibilità di erogare finanziamenti per chi volesse proseguire gli studi, ci sono i prestiti d'onore, no, il sistema bancario, e quindi ne abbiamo parlato anche. Sì. E quindi chissà, insomma, magari sarebbe divertente fare anche un confronto fra come funzionano quelli, esatto, le condizioni e invece come funziona questa nuova opportunità. Una dotazione patrimoniale complessiva di 25 milioni di euro. Vogliamo tornare un attimo ai tassi di interesse praticati sui mutui per le giovani coppie, e quindi la partita più importante di tutto il progetto, appunto, diamo il diritto al futuro, così si chiama appunto tutto il progetto del Ministero della Gioventù. Secondo te che tipo di valutazioni iniziali devono fare le giovani coppie che devono optare per un mutuo a tasso variabile o un mutuo a tasso fisso, cercando di aderire a questa opportunità della quale parliamo questa mattina? Ecco, in questo momento il mercato ci dà delle indicazioni molto particolari. Innanzitutto la tempesta finanziaria che ha colpito le borse e i mercati obbligazionari a luglio e agosto ha impattato anche sulle scelte che poi riguardano un po' i mutui anche per le giovani coppie che riusciranno poi a usufruire di queste agevolazioni. Possiamo dire che per quanto riguarda chi è orientato al tasso fisso come profilo di rischio più basso, ma accetta quindi tendenzialmente, statisticamente, il pagamento di una rata un po' più alta del variabile, in questo momento gli indici EURIRS, che si appoggiano per l'appunto per il calcolo delle rate in partenza dei mutui a tasso fisso, sono abbastanza bassi, con la scadenza a 20 anni circa al 3,2%, tenendo conto che il minimo storico è stato segnato proprio lo scorso agosto al 2,7%, quindi sono abbastanza bassi. Ad aprile, per esempio, erano oltre il 4%, quindi sono crollati. Allo stesso tempo, però, anche per quanto riguarda il variabile, che in partenza è ancora molto più basso anche in questo momento, sono state ribaltate dall'andamento delle borse in questa estate le proiezioni sull'andamento dell'Euribor, che è poi l'indice su cui si appoggia il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile. Se a maggio l'Euribor era visto in rialzo nei prossimi 5 anni, costantemente ma sempre in rialzo, le proiezioni fatte proprio l'altro ieri danno invece una nuova discesa per l'Euribor nei prossimi 12 mesi, proprio perché i mercati si aspettano che probabilmente che questa crisi sarà più ampia del previsto e quindi la banca centrale sarà costretta a tenere bassi ancora i tassi per molto. E infatti, quindi sicuramente non sappiamo, perché non sappiamo cosa succede, visto che qua non possiamo fare previsioni dall'oggi al domani. Sembra a questo punto ormai abbastanza accantonata l'ipotesi di un altro rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, quindi potrebbero rimanere all'attuale 1,5% ancora per diverso tempo. Sentiamo la domanda di Vincenzo da Napoli, poi ancora alcuni aspetti da chiarire sull'attività di Consap con il dottor Morgante. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, mi scusi, io volevo chiedere se questa agevolazione per i mutui era prevista anche per professionisti iscritti ad albo. Non esiste nessun tipo di, se comunque l'età corrisponde, se il reddito corrisponde, se c'è il contratto a tempo determinato per appunto le persone che hanno l'obiettivo di chiedere, anche io sono iscritta ad un albo professionale, qualora dovessi rimanere disoccupata, non ho un'età inferiore ai 35 anni, quindi purtroppo io e te, caro Vito, non abbiamo i requisiti anagrafici, forse tu ce l'hai però, lo stai scavalcando anche tu. Detto questo, insomma, credo che si debba guardare agli altri requisiti, non tanto al fatto di essere più o meno iscritti ad un albo professionale, anche questa non credo che sia una discriminazione appunto che esiste. Dottor Morgante, Consap, lei prima ci spiegava appunto che qualora una giovane coppia che avesse la opportunità di ottenere un finanziamento in banca per l'acquisto della sua prima casa attraverso appunto questa procedura che abbiamo spiegato questa mattina e attraverso l'attività del fondo di garanzia appunto gestito da Consap, si fa fatica a rispettare 3 rate di fila, in quel caso interviene la Consap, che appunto rimborsa alle banche al posto del sottoscrittore queste rate non versate. Però il contraente del mutuo non sono rate a fondo perduto, prima o poi le deve restituire. Certo. E Consap o provvede immediatamente al recupero di queste somme, ma poi lì diventa un rapporto con la banca, nel senso che la banca può anche decidere poi di non intrattenere più il rapporto con il cliente, non è poi un discorso più del fondo, diventa un rapporto con la banca da parte del beneficiario. Si può andare avanti e quindi se il beneficiario riprende a pagare regolarmente le rate vengono restituite alla banca solamente le somme rimaste insolute, altrimenti nel momento in cui riprende il pagamento va da sé che comunque sia il finanziamento ritorna regolare. Certo, l'importante è ecco che tutte queste tecnicalità, passatemi il termine che è anche comunque molto brutto, le si comprendano molto bene sin dall'inizio, quindi non è che si deve andare in banca con la convinzione che alla prima difficoltà del percorso professionale possiamo stare tranquilli se abbiamo fatto il mutuo perché tanto interviene la Consap. No, fate attenzione, perché comunque quello è un rispetto, è un impegno finanziario, c'è un contratto che deve essere onorato, pertanto non c'è niente di regalato insomma in tutta l'operazione. È un'agevolazione, una rassicurazione anche emotiva non indifferente. Vito, che cosa ne pensi? Però poi bisogna rispettare le regole del contratto, giustamente. Sì, più che altro la leggo nella possibilità offerta da parte di questa iniziativa di accedere al credito alla fine, ecco, perché altrimenti infatti non accederebbero. Allora, c'è un una domanda di Angela da Bergamo che dice: noi ora dobbiamo chiedere un mutuo per la ristrutturazione della prima casa, è di proprietà del mio ragazzo, iniziata 2 anni fa, ce lo concedono sulla ristrutturazione, deve essere un acquisto. Mi pare che la normativa sia abbastanza, la normativa, il protocollo d'intesa, il progetto sia abbastanza chiaro. Dottor Morganti, lei ce lo conferma per l'acquisto della prima casa? Sì, glielo confermo che è l'acquisto della prima casa e non per la ristrutturazione. Benissimo, un'ultima domanda, non ancora abbiamo un paio di minuti di tempo. Gianni da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Che cosa voleva sapere? La domanda è necessario essere coniugati e se sì, perché? È un problema di garanzie, di coperture? Questo lì, anche lì dottor Toriero purtroppo è dovuto allontanarsi e non possiamo, però allora io da quello che rileggo dalle caratteristiche dei mutui ammissibili alla garanzia del fondo, questi finanziamenti sono concessi a giovani coppie coniugate o nuclei familiari con unico genitore con figli minori che alla data della presentazione della domanda di finanziamento abbiano i seguenti requisiti, appunto età, reddito, eccetera eccetera. Dottor Morganti, anche lì, come dire, tema di competenza bancaria sulla quale lei non vuole intervenire? No, possiamo intervenire, non c'è problema. Le coppie possono essere anche non coniugate, ecco, ma devono avere un figlio minore convivente. E possono essere anche delle coppie non coniugate, monogenitoriali, quindi con un genitore solo, purché ci sia un figlio convivente minore. Mm-hmm. E quindi, insomma, Gianni, queste sono delle regole che sono state fissate e stabilite, pertanto le motivazioni per cui possono stati scelti determinati nuclei familiari piuttosto che altri, ma insomma il tema è l'età più che altro, e permettere di accedere al sistema del credito, soprattutto più che l'età, diciamo che il tema è il lavoro, il fatto di avere appunto un lavoro, un percorso professionale flessibile, oggi chiamiamolo così, a qualcuno invece il termine che meglio si sposa è quello di precario. Comunque, insomma, abbiamo i lavoratori atipici al centro di tutta l'operazione complessiva. Io non so se abbiamo ancora altre domande, volevo ancora leggere appunto quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori. Qualcuno dice che questa è un'operazione appunto che porta a sponsorizzare forse un po' troppo ancora il sistema bancario. Vabbè, non fare inutili commenti, ci scrive un altro ascoltatore, e ancora mi sembra, ecco, sei una propagandista. Vabbè, questo non voglio leggere perché insomma non c'entra niente. Di fatto, complessivamente, Vito, possiamo fare appunto una conclusione di tutto il nostro percorso di questa mattina. Il tema è che comunque anche queste persone hanno bisogno di mettere su casa, qualche volta non riescono a farlo, quindi comunque forse è un'iniziativa che la sua validità ce l'ha. Certo, un altro tassello che si inserisce insieme alle altre che sono state prese negli ultimi mesi, che riguardano anche, ricordo, la possibilità di rinegoziare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso, anche se su questo, visto proprio che c'è una forbice ancora alta tra questi due tassi, non so se è validamente applicabile da parte dei mutuatari. Ne riparleremo. Grazie a Vito Lopes, a Gianfranco Torriero dell'ABI, a Roberto Morgante della Consap. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.